Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. È l'incubo di tutti gli start-upper, eppure è la prima cosa che gli chiedono, al massimo la seconda. Qualunque investitore, la prima cosa che vuole vedere è il business plan, o peggio ancora, il piano economico-finanziario. E d'altra parte, qualche ragione ce l'hanno. Una start-up che dimostra di non avere sotto controllo i conti dimostra anche di non avere cultura d'impresa, o perlomeno non a sufficienza. D'altronde, molte di queste start-up nascono da un'idea e magari un paio di amici che decidono di realizzarla. Spesso si tratta di ricercatori o comunque di persone che non hanno alcuna dimestichezza con bilanci, stati patrimoniali, valutazioni finanziarie e così via. Perciò l'elaborazione di questi documenti finisce spesso per rivelarsi uno scoglio tra i più difficili in assoluto da superare. Da questa constatazione nasce a Rocco una startup che mira ad aiutare le altre startup in questa attività così delicata. Ci spiega tutto Filippo Franceschini, che è cofondatore di Arrocco. Buonasera Franceschini. Buonasera a tutti. Allora senta, intanto parliamo di una piattaforma internet che attualmente è già presente online in versione beta, ma che presto verrà rilasciata, diciamo così, in versione alfa, in versione definitiva. Ecco, che cosa è, che cosa permette di fare? Dunque, Arrocco è una piattaforma online che permette di realizzare dei piani economico-finanziari completi che sostanzialmente corrispondono alla parte numerica di un business plan. Facciamo un esempio. Vogliamo aprire un bar. Nel momento in cui abbiamo questa idea, chiaramente dovremo riuscire a introdurre nello strumento i costi, quelli che possono essere ad esempio per il personale piuttosto che per le materie prime, che potrebbero essere il caffè, gli ammortamenti dell'acquisto della macchina per fare il caffè, per esempio, no? Tutti gli investimenti che servono, e dopo inserito il prezzo di vendita per ogni prodotto che si vuole vendere, ad esempio il caffè, e quindi lo strumento, man mano, in modo progressivo che tu inserisci questi valori all'interno dello strumento, ti dà visibilità di come si sta costruendo il piano economico finanziario, quindi i tuoi ricavi, i tuoi costi quali sono, il punto di pareggio, ovvero il punto che ti serve per sopravvivenza, diciamo, esatto. Ecco, appunto, dice progressivamente, perché esistono già strumenti di questo tipo, ma obbligano a mettere dentro tutto, diciamo così, sono strumenti per professionisti. Questo invece è uno strumento più semplice, può essere usato anche come uno strumento di, diciamo così, di controllo di gestione, non so se è il termine giusto. Sì, hai assolutamente ragione, perché fino adesso quando andiamo, diciamo, dal nostro, ad esempio, commercialista a farci fare un'analisi di questo genere, tutt'oggi si utilizzano degli strumenti più che altro che ragionano a consuntivo, no? E quindi quando scopri quello che dovevi fare è troppo tardi, sostanzialmente. Esattamente, mentre la nostra mission è quella di creare uno strumento che possa essere utilizzato nel tempo per controllare, modificare, simulare anche come possono andare certe cose in base a certe scelte che possono chiaramente variare nel tempo. Oggi acquisto una marca di caffè, magari fra 3 mesi mi accorgo di volerne un'altra e quindi devo capire anche dal punto di vista economico poi se questa scelta ha un impatto positivo o negativo, no? Ecco, adesso stavamo facendo l'esempio del bar e parlavamo del caffè un po' per semplificare, ma appunto questa nasce come strumento per essere rivolto alle start-up. Intanto forse possiamo dire che è un segno dei tempi questo, cioè le start-up stanno diventando un fenomeno talmente di massa che esiste un mercato delle start-up al quale ci si può rivolgere. Vorrei capire con quale approccio, qual è il vostro modello di business e se saranno solo le start-up il vostro mercato di riferimento. Allora, le start-up saranno sicuramente un segmento di mercato importantissimo. Ci rivolgiamo anche agli studi di commercialisti, quindi a persone chiaramente più competenti nell'ambito, anche perché fino ad oggi, diciamo, non esistono strumenti di questo genere che diano la possibilità di fare questo tipo di analisi in modo veloce, molto veloce e molto semplice. Ecco, se ho capito bene, però diciamo che riserverete due trattamenti diversi a queste due tipologie, no? La startup e il professionista, forse anche dei servizi diversi. Vorremmo raggiungere, diciamo, il maggior numero di startup offrendo il servizio di Arroco a un prezzo veramente competitivo. Tra le altre cose, rimarrà sempre presente nella piattaforma la possibilità di provarlo gratuitamente, e mentre per gli studi di commercialisti ci sarà la possibilità di utilizzare delle variabili più complesse che permetteranno, ad esempio, di gestire un aumento di capitale sociale. Faccio un esempio. Ok, ecco, ma sbaglio a dire che in una versione più semplice, diciamo, senza troppe sofisticazioni, sarà effettivamente disponibile un po' gratuitamente, un po' per tutti sul sito? È una cosa che farete, questa? Me la conferma? Assolutamente sì, okay. Confermato. Okay. Va bene, grazie Filippo Franceschini. Grazie a voi, un saluto a tutti voi a Radio 24.